avevamo due buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 fondi di acido superpotente, una palliera mezzatina di papella, un'intera galassia multicolore di eccitanti calmanti scoppianti e divani, e anche un litro di tequila, un litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e due tozzine di chiarette di poker.